told me all throughout history, the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference but were standing indifference. I guess it's up to me now, should I take that risk or just smile? What do you know, it happened again. Senti, hey. Questa è la radio che ascolti nella tua città. In ogni luogo lei ti accompagnerà. Se tu lo dirai alla gente, di più hey. È la tua radio e non vive di pubblicità. Ad ogni orario trasmette la realtà. Transizione di fase, dal sud Senti. Nella radio commerciale con le hit parade o con le solite voci di quei DJ. Hey, radio ribelle spinge contro informazione, la censura non fa i tagli come Miracle Play. Dal sud al nord ovunque resta connesso, la guerriglia passa dalla rete adesso. È così che qui noi facciamo resistenza, radio transizione di fase contro tendenza. Yo, Calafro Sound e radio transizione di fase, guerriglia in strada nell'etere in rete. Sin ha, straight from Calabria, you know? Camina! E allora buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a questa 17esima puntata di Salute e Felicità. 17 porta sfiga e proprio per questo infatti miticamente questo governo ha avuto la fiducia, ma comunque chi è che non ci credeva a questa cosa? Cioè davvero ridicoli. Addirittura hanno preso più voti di quanti ne hanno presi a ottobre, cioè noi siamo imbecilli e loro sono dei pezzi di merda. Non diciamo che noi siamo, come dire, meglio di quelli che stanno al governo, abbiamo il governo che ci meritiamo chiaramente. E allora va bene, prima come avrete magari letto un po' qua e un po' là, insomma oggi voteremo 5 punti, daremo la fiducia, anzi per meglio dire, per restare in tema, su 5 punti per la salute e per la felicità di ognuno di noi. Allora, oggi i 5 punti che affronteremo con costanza e molto impegno, provo a fare finta di essere quello là che poi il pagliaccio che parlava oggi pomeriggio lì, su Rai 1, su Repubblica TV, eccetera, eccetera. I 5 punti, diciamo, di buon augurio a questo settembre che è definitivamente iniziato, sono l'università, l'antifascismo, il Vaticano, la manifestazione della FIOM del 16 ottobre a Roma e la questione del ponte. Oggi tra l'altro il Presidente del Consiglio è anche bene bene spizziculiato. Dunque sono le 21, facciamo partire la sigla che come al solito è Animal Collective Leaf House, con l'augurio appunto che per la nostra salute e per la nostra felicità Università, Antifascismo, Vaticano, FIOM e No Ponte siano dei punti che riusciamo a risolvere entro la fine del 2010. Un buon ascolto a tutti e a tutte, Leaf House. forest down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wait. They do not know you anymore. E allora, dei cinque temi di cui vi ho detto un poco fa, quelli che sono i cinque temi che tratteremo in questa puntata, uno mi preoccupa in particolare, ma vi giuro, cioè, ha parlato un po' di tutto oggi il carissimo, gentilissimo, ma uno è davvero, secondo me, cioè, il più, non so come definirlo, ascoltate pure voi e provate a definirlo. Ne ha toccati tanti di argomenti, ma secondo me questa cosa che ha detto è davvero la peggiore. Fra poco. Questi cinque capisaldi devono essere delineati in missione che creino il contesto economico necessario a potenziare i motori della crescita attraverso una più efficace integrazione del nostro sistema produttivo nel flusso del commercio internazionale. Solo così le buone intenzioni e le ricette teoriche si tradurranno in vero e concreto sviluppo del Paese. Questo significa, per cominciare, favorire la crescita dimensionale delle nostre imprese e sostenerle più efficacemente nel loro sforzo di internazionalizzazione. Questo significa semplificare il lavoro delle nostre aziende, liberandole dall'enorme massa di regole, spesso contraddittorie, che rappresentano il primo vero svantaggio competitivo, fabbricato tutto in casa, prima ancora di doversi confrontare con gli inevitabili ostacoli in terre straniere. Significa completare la riforma liberale che annunciammo sin dalla nostra discesa in campo, assicurando che il principio fondamentale del tutto è consentito tranne ciò che è vietato sia applicato con chiarezza e trasparenza anche nel nostro Paese. Significa superare un sistema produttivo ancora fondato su un modello spesso anacronistico di relazioni sociali che ancora richiama un presunto conflitto capitale-lavoro. Significa fornire ai nostri cittadini e le nostre imprese di fonti di energia economicamente conveniente, rispettose dell'ambiente e che nel contempo riducano la pericolosa dipendenza energetica del nostro paese. E la sola risposta oggi è il nucleare, una sfida che dobbiamo perseguire con convinzione e determinazione. Allora, scusatemi, forse, cioè, non lo so, ma forse ho sentito io male. No, riascoltiamo solo il pezzo finale, dai, vi giuro, un secondo. Questi cinque capisaldi dei nostri cittadini e le nostre imprese di fonti di energia economicamente conveniente, rispettose dell'ambiente e che nel contempo riducano la pericolosa dipendenza energetica del nostro paese. E la sola risposta oggi è il nucleare, una sfida che dobbiamo perseguire con convinzione e determinazione. No, scusate, cioè, ma no, scusatemi, allora, forse l'ho sentito soltanto io questa cosa qui che ha detto. E cioè, allora, ha definito oggi, nel 2010, ha definito l'energia nucleare una fonte di energia economica, quindi che si spende poco per costruirla, poi aspettate, scusate, perché davvero mi confondo, economica per, cioè, insomma, costa poco, è pulita ed è facile da fare, da applicare, come dire, da riutilizzare, c'è un guadagno economico molto elevato. E parlavamo di nucleare, secondo me fra le tante cose che ha detto oggi, e adesso proprio da questo momento in poi salute e felicità schizzerà verso le stelle, senza più questo tono che però ci stava per il nucleare, insomma, che non mi pare che sia assolutamente la forte rinnovabile o economica o sostenibile che vogliamo nel nostro paese. E quindi adesso facciamo via uno schizzo verso il cielo. Il prossimo piano si chiama Sunchild ed è dei Motor Psycho. Yeah. enchanted in the rapture of his sentimental sway. But underneath the wheels lie the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting god. You know I'm not dead. Allora, mamma mia, che brano, signore e signori, questo qua è davvero un pezzo incredibile che gli Smashing Pumpkins hanno fatto tipo 10 minuti prima di sciogliersi. Era The Everlasting Gates, dall'ultimo album Machine, The Machine of God, degli Smashing Pumpkins, appunto, e non si capisce come gli sia venuto in mente questo brano e poi dopo un quarto d'ora di risciogliersi per la 150esima volta. In ogni caso, dopo Figli del Sole, Sunshine dei Motor Psycho, dopo la dichiarazione del nucleare di Berlusconi e aver esserci fatto un po' di viaggi con i Placebo e con gli Smashing Pumpkins, appunto, è ora di porre la fiducia. Sono passati ben 25 minuti dall'inizio della trasmissione, è ora di porre la fiducia sul primo punto. Vi ricordo che la fiducia oggi è che la fiducia, cioè ci crediamo noi che questo punto all'ordine del giorno dell'italiano e dell'italiana svanisca, ok, e si risolva. La sapienza, l'Ateneo è nel caos, si ferma anche psicologia. Un'altra facoltà dell'Ateneo ha deciso di rinviare l'inizio delle lezioni a data di destinarsi, da destinarsi. Una misura estrema che arriva dopo l'ultimatum del rettore Luigi Frati al governo, Pernacchione, detto anche, per chiedere la cancellazione dei tagli. Alla sapienza si ferma anche psicologia. Dopo ingegneria, lettere e filosofia, architettura, scienze delle comunicazioni e fisica, un'altra facoltà, scusatemi, mi scrivono di tutto nel frattempo, un'altra facoltà ha deciso di fermare le lezioni. Questo obiettivo si legge nel comunicato diffuso dal collettivo di psicologia, fortemente perseguito dai ricercatori della nostra facoltà, che già dal maggio scorso avevano annunciato l'indisponibilità a ricoprire gli insegnamenti a loro assegnati in segno di protesta contro i tagli all'università pubblica e alla ricerca e contro lo svilimento della loro figura professionale, previsti dalle nuove normative che il governo sta per introdurre, e sostenuto inoltre da molti studenti e studentesse che hanno compreso come questa legge demolisca totalmente quella che l'università pubblica, è stato ottenuto grazie alla votazione del Consiglio di Facoltà, che si è così espresso in accordo alle decisioni in precedenza prese dalle altre facoltà che vi ho detto prima. Nei prossimi giorni, proseguono gli studenti nella nota, anche altre facoltà voteranno in merito alla sospensione delle lezioni, per ottenere così un quadro unitario in cui tutto l'Ateneo si esprimerà in maniera forte contro i disastrosi effetti che questo disegno di legge avrà se venisse approvato. L'università, in tutte le sue componenti, entra ufficialmente in mobilitazione, una mobilitazione unitaria e coesa contro le politiche di questo governo che non cesserà finché non riuscirà a cambiare la drammatica situazione attuale. E allora è un punto di grande orgoglio che chi vuole, può intendere, riesce a intendere, intende, insomma, anche psicologia, a quanto pare nel bollettino delle facoltà della Sapienza, ha deciso di fermarsi qualche giorno fa. Insomma, l'articolo è un po' datato, però fa sempre piacere, è un punto d'orgoglio. E speriamo, quindi, poniamo la fiducia, ascoltatori e ascoltatrici di Salute e Felicità, poniamo la fiducia nel fatto che quest'anno l'università si blocca davvero, il decreto Gelmini, il decreto Moratti, il decreto, tutto il processo di Bologna si blocchi magicamente e si ricomincia ad avere una università pubblica, laica e di qualità e di massa e di tutto, soprattutto. E allora va bene, andiamo avanti, va molto rapidamente, insomma. Il prossimo brano che andremo ad ascoltare è dei Queens of the Stone Age, si chiama Metti il mulo dove vuole il padrone, che in realtà in inglese è Give the mule what he wants, What He Wants, sempre Berlusconi quando parla in inglese. Un buon ascolto a tutti e a tutte. Describe the touch. Do you know? It's the thought. It's warm and yellow and has a ruffle. It's warm and yellow. And I think He's just a kitten. He's just a kitten. Names for your disguise fall on the sky, and looking up from down is a sea to realize. E allora ce l'abbiamo fatta, insomma, a ritornare dopo questo pezzone. Loro erano i Sonic Youth, e ogni tanto va ricordato che i Sonic Youth non sono quel solo quel lato lì che ci piace tanto, insomma, era una chicca per gli intenditori o le intenditrici, insomma, come volete voi. Ma i Sonic Youth sono anche questa parte qui. Questo brano si chiamava Contra le Sexisme, che io non ho idea di come si pronunci in francese, chiaramente, mi pare chiaro, appunto. Però va bene, contro il sessismo, tradotto in italiano, che mi viene un po' più facile. E allora continuiamo con la playlist di oggi e con un altro paio di interventi del nostro caro presidente, che oggi ci ha fatto davvero sbellicare. Una cosa che vi prego di notare è proprio quando dice la cazzata grossa nella frase, si impappina, come prima sul nucleare. Adesso poi ne sentirete un altro paio davvero tremende. E allora, insomma, un saluto forte al collettivo di psicologia e un buon ascolto a tutti e a tutte. Siete collegati su Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente qui in onda il mercoledì dalle 21 alle 23 su transizionedifase.org. Non vi è dubbio, perciò, che su problemi nuovi o sulle modalità di realizzazione del programma di governo in situazioni mutate vi possa essere un necessario e legittimo dibattito all'interno dei partiti della maggioranza. Discussione che può contribuire a mettere a punto una strategia più efficace nella risposta ai bisogni e di conseguenza capace di raccogliere un maggiore consenso. La mia stessa indole personale è sempre stata aperta alla ricerca di soluzioni più avanzate e migliori attraverso il confronto e l'apporto di contributi diversi. Faccio fatica a trattenere le battute pungenti che mi verrebbero. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door. Come on. cerchiamo di botta, basta, non si può sentire questa canzone. In ogni caso, chiaramente è IA. Vabbè, insomma, volevo un attimo scherzare dopo questa frase detta sulla personalità, sulla persona di Berlusconi, che si, insomma, erto, non so come si dice, insomma, ha detto che lui è uno pulito, che non ha mai fatto guai, cioè, va bene, ci ascoltiamo non più Eia ma Oh Yeah dei Stereo Total. Buon ascolto a tutti e a tutte. Oh yeah. E allora, insomma, torniamo un attimino in noi, va, che è meglio. Questa era, ecco qua, va bene, muove la faccio partire. Questa era Is This It dei Strokes, un altro pezzone di un gruppo che non so bene che fine abbia fatto al momento, cioè sono usciti con un paio di album un po' così, ma all'inizio spaccavano proprio. Is this it? Cioè, è così, questo è, bene sì, per chi si fosse infervorato invece oggi pomeriggio alle parole dell'altra parte di questo governo, che non ce lo dimentichiamo mai, è ancora più contenta di tutti perché piglia bei soldi e non si esprime, c'era del centro-sinistra. E tu dici, va ammazza, per chi si fosse infervorato per questo discorsone di Bersani, che insomma pare che lui non ha mai governato negli ultimi 20 anni in questo paese, non ha fatto altrettante schifezze. Devo dire, per chi si era infervorato, dunque, diciamo, arriva oggi, come dire, un altro piccolo particolare del Partito Democratico, in modo più specifico dei Giovani Democratici, che in Calabria hanno deciso di fare questa cosa geniale. Non solo Paola Concia, la parlamentare lesbica che era andata alla Casa Pound, ma bensì a Lamezia il 25 settembre. Oddio mio, i GD, cioè Giovani Democratici, i piccoli del PD, sono scesi in piazza insieme a Casa Pound. No alla sperimentazione animale come prassi medico-scientifica, sì a metodologie e tecnologie alternative di ricerca come sistemi molecolari, test clinici epidemiologici, scusate, e in vitro, simulazione al computer e chip genetici. A sostenerlo è Casa Pound Italia, che si schiera contro la direttiva sulla vivisezione approvata l'8 settembre scorso al Parlamento europeo. Cioè, allora, due ordini di motivi rispetto a questa notizia assurda. Punto primo, ma Casa Pound ora c'è contrario alla vivisezione, cioè, Madonna mia, questi vanno in giro con spranghe e catene coltelli, poi è preso proprio la filantropia, fate pena, Casa Pound, fai pena davvero. E poi questi dei Giovani Democratici, che c'è, voglio dire, oramai non stupisce più, però per la miseria, c'è stato 1 milione di persone in piazza sabato scorso contro la vivisezione in tutto il mondo, in tutta Europa, per questa direttiva, e mo', cioè, si sono svegliati sti quattro balordi e hanno fatto pure un comunicato con Casa Pound, cioè, fate pena, Giovani Democratici. Davvero, io non so più che dire. Ascoltiamoci un po' di musica, va? Faccio fatica a trattenere le battute pungenti che mi verrebbero. Faccio fatica a trattenere le battute pungenti che mi verrebbero. Faccio fatica a trattenere le battute pungenti che mi verrebbero. Thank you.

Thank you. Allora, torniamo fra di noi, insomma, dopo questo viaggione che ci siamo fatti insieme a Amon Tobin. Il primo brano si chiama Back from Space. Poi abbiamo ascoltato i Mouse on Mars con Catching Butterflies e adesso Ocre con Involution. Perché proprio Involution? Perché tra tanta merda che sta volando in questo paese, in questi giorni ci si mette anche Milizia Cristi, che come al solito tira fuori la sua genialata a 10 mesi dal Pride, LGBTQ Pride che si svolgerà, l'Euro Pride che si svolgerà a Roma. Fatto sta, Milizia Cristi contro l'Euro Pride recita un'offesa al Papa e alla Chiesa, quindi già dicono un'offesa cioè a loro, quindi Milizia Cristi, ma che cazzo vuoi? Il movimento integralista prende posizione contro l'appuntamento previsto per il giugno 2011, grazie della pubblicità. Ci opporremo con ogni mezzo moralmente lecito per impedire che un evento del genere si possa realizzare sul suolo di Roma. Definiscono l'Euro Pride un appuntamento vergognoso e promettono che faranno di tutto per impedirlo. Vediamo. Gli integralisti cattolici di Milizia Cristi tornano a farsi sentire e lo fanno per attaccare la 10 giorni, grazie della pubblicità. In un comunicato, spiegando la loro netta opposizione a qualsiasi tipo di rivendicazione da parte degli omosessuali, da sempre oggetto di attacchi omofobi da parte di quello che si autodefinisce movimento politico cattolico. Ma Milizia Cristi, cioè Milizia Cristi, non so se ve lo ricordate, erano anche quelli di quella famosa palestra che 2 o 3 mesi fa era scoppiato il casino, non so cosa era successo dentro, però una palestra nella provincia di Roma dove dentro avevano trovato forse spranghe, catene, insomma, non mi ricordo, una zozzeria. Brava Milizia Cristi, ma a chi lo fa questo favore? Alla CEI, la comunità episcopale italiana. E allora, giustamente, no, quasi ci facciamo le carezzine mentre il paese finisce proprio, chiudiamo i battenti. La CEI cosa risponde? Bagnasco, due punti, aperte virgolette, subito con le riforme. E ai cattolici, continua, è il vostro momento. Il discorso del cardinale, nella sua prolusione al Consiglio Episcopale Permanente, CEP, tocca i temi sociali. Per il conseguimento di un ideale comune che resta l'interesse del paese, l'Italia non può più adattarsi, scusatemi. Il presidente della CEI chiede un nuovo patto nazionale, nuovo, cioè sono sempre là. Lancia l'allarme per la deriva della scuola, grazie mille, lo sapevamo. Chiede contegno e linguaggio adeguato ai politici. Difende l'unità della nazione e il tricolore, tricolore contro false concezioni del federalismo. E spinge i cattolici a scendere nell'agone politico. Allora, questo articolo si poteva anche chiamare Note di ingerenza vaticana, cioè proprio difende l'unità della nazione, lui che è cardinale di un paese, di uno stato estero, cioè insomma del Vaticano, di quella roba lì, e proprio lui difende l'unità della nazione e il tricolore. Vabbè. E spinge anche i cattolici a scendere nell'agone politico. Vabbè. Come se oggi pomeriggio non ci fosse stato cioè, la Democrazia Cristiana, insomma, a intervenire tranquillamente là al Parlamento. È come se in quelli che si chiamano Popolo della Libertà o Lega Nord non ci fossero altri finti cristiani che provano a mantenere il loro potere leccando qui a destra e qua a sinistra. Va bene, va, andiamo avanti. Adesso, dopo questo simpatico connubio Milizia Cristi Vaticano, che davvero ci fa proprio strozzare, ci ascoltiamo un altro po' di musica, perché sennò davvero qua la situazione è guaio tracolla. Quindi adesso abbiamo Miss Kittin, dopo Ellen Alien e Apparà, e subito dopo Justice. Buon ascolto a tutti e a tutte. Thank you. talk, flash too close in airports, strangers, you get. Staring at me, faces looking unhappy, headaches non-stop, guarantee kick your ass, kick your ass, kick, kick, kick, bush. E allora siamo tornati dopo questa tranche di musica. Allora abbiamo ascoltato appunto Ellen Alien Up, anzi no, in realtà c'è stato un errore. Prima abbiamo ascoltato Miss Kittin con Pollution of the Mind, poi Ellen Alien e Appara con Floating Points, poi Justice con Waters of Nazareth e infine quest'ultima era sempre Ellen Alien, ma in questo caso da sola, con Push, Push, Push, Push, Kick Your Ass. Insomma, speriamo di ballarla tutti quanti a questo evento che è un altro dei quattro punti, dei cinque punti che oggi, di cinque punti per la salute e la felicità di questo paese, perché davvero ne abbiamo toccati già di belli e ne manca un paio ancora più interessanti. E quindi dopo l'università, la questione appunto della ricerca e del DDL Gelmini, la questione dell'antifascismo e del no al Vaticano con Milizia Cristi e la CEI, arriviamo a una notizia che finalmente ci farà cioè avremo anche un bel momento romantico. Parate Show è un villaggio GLBT. Roma prepara l'Europride 2011. La manifestazione sull'orgoglio gay, scusate, questi articoli di Repubblica fanno davvero schifo, ma vi leggo per farvi capire com'è la questione. La manifestazione sull'orgoglio gay, in realtà GLBT vuol dire gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, e ne mancano un altro paio di lettere che poi nomineremo, che durerà 10 giorni dal 2 all'11 giugno, dovrebbe richiamare oltre 1 milione di persone. Il fulcro, della kermesse sarà nel quartiere multietnico dell'Esquilino, dove c'è Casa Pound, in Piazza Vittorio, con stand dell'associazionismo, attività culturali e incontri. Sfileranno da Termini, destinazione Circo Massimo, passando per via Cavour, via dei Fori Imperiali e costeggiando il Colosseo. Anche se mancano ancora 8 mesi e mezzo alla data dell'Europride di Roma, in programma per l'11 giugno 2011, il circolo Mario Mieli, cui è affidato il compito di organizzare l'evento, sembra già avere le idee chiarissime. Del resto ha dovuto presentare un progetto dettagliato all'EPOA, European Pride Organizer Association, l'associazione che gestisce il marchio, ahimè, Europride, perché Europride purtroppo è un marchio. È un progetto sul quale si è iniziato a lavorare 2 anni fa e che è stato illustrato in un hotel della capitale, al termine di 3 giorni di meeting e confronti proprio su questa sfilata. In realtà l'Europride ruoterà attorno ad una serie di eventi della durata di 10 giorni, con inizio il 2 giugno. L'idea è quella di creare un centro storico Rainbow, l'arcobaleno e il simbolo della comunità GLBT, recita, che avrà il suo fulcro nel quartiere multietnico appunto dell'Esquilino. Che se ne stia già parlando 9 mesi in anticipo è sicuramente un'ottima notizia, e sicuramente di Pride e di Europride in questo momento in questo paese ce n'è molto bisogno. Visto innanzitutto quello che ha detto il Vaticano, che ha detto, vi ricordo, poco fa Bagnasco ha detto subito le riforme e spingiamo i cattolici a scendere nell'agone politico. Milizia Cristi che dice l'Europride non si fa, e invece l'Europride uguale si fa finalmente. Ci sono un po' di nodi chiaramente molto, molto contraddittori, già il solo fatto che Europride sia un marchio sinceramente non è una cosa che va molto bene, e soprattutto che si faccia come al solito un po' solo il nome del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, che in realtà è una delle tante associazioni, forse tra le più grandi sicuramente, quello sì, diciamo, però una delle tante associazioni e gruppi che si stanno organizzando e stanno organizzando eventi a Roma e non solo, appunto. Speriamo bene per questo Europride, speriamo che ci vengano lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali, queer, asessuati, eterosessuali, transgender, drag queen, drag king, beer, di tutto, butch, di tutti i colori del mondo, e speriamo che finalmente in questo mese gliela famo a fare un Pride che sia degno di questo nome. E allora non si poteva non mettere queste 3 canzoni una dietro l'altra. La prima è chiaramente una dedica a noi tutte e tutti, le altre due sono, anzi l'altra diciamo, è una che sicuramente non mancherà a giugno all'Europride. Buon ascolto a tutti e a tutte. soltanto un distrattore. Mezzogiorno. Il Sud ha bisogno di regole, di rispetto delle regole e di un'adeguata dotazione di infrastrutture materiali e immateriali. Il piano per il Sud dovrà rispondere parallelamente a queste fondamentali esigenze. Dal 2002 al 2009, su un valore di opere approvate dal CIPE già cantierate, pari a circa 68 miliardi di euro, sono stati triplicati gli interventi nel Mezzogiorno. Nei prossimi 3 anni saranno investite nel Mezzogiorno le risorse per circa 21 miliardi di euro, pari al 40% degli investimenti complessivi in tutta Italia, raggiungendo nel 2013 alcuni risultati importanti. Ne cito qualcuno: il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ci sono lavori in corso per sopperire alla carenza di iniziative che si è verificato durante 5 anni dei governi della sinistra. Il sostanziale avanzamento di opere quale l'autostrada Telesina, l'asse autostradale Ragusa-Catania, la superstrada Ionica 106 e il raddoppio della superstrada Agrigento-Caltanissetta, le statali Olbia-Sassari e Carlo Felice, la rete metropolitana campana. Entro dicembre sarà pronto il progetto esecutivo del ponte sullo stretto di Messina. Che i governi della sinistra avevano liquidato in 5 minuti di seduta. Noi abbiamo ripreso il progetto, questo progetto è avanzato, è un progetto fondamentale per la Sicilia. Non uscire col ministro senza portafoglio, perché il conto puoi pagare ti fa. Presidente, e se anche il vicepresidente ha male un dente, avanti il prossimo che avrà la presidenza. la sua privacy. E il cancelliere tira il cancellino, scancella la tristezza e va a bailar la presidenza. Senza portafoglio, perché il conto puoi pagare ti fa. E se ti scappa di andare al gabinetto, chiedi al capo gabinetto che con te poi ballerà la presidenza. Ma quello a vita balla un po' di più. E i deputati, sti figli deputati, si firmano l'aumento, si assentano i 600 e tutto il Parlamento va a bailar la presidenza. Ringraziamo Elio e le Steletese per questa canzone mitica, davvero. Ma come gli è venuto in mente? Mezzogiorno, poi comincia così, cioè, ridicolo. Che fa lui? Lui finisce la Salerno-Reggio Calabria entro quando? Voglio ridicolo, davvero. Oggi c'era, cioè, c'era da piangere, va bene, c'era da piangere, però ogni tanto quando ho sentito la parola mezzogiorno detta in quel modo, mezzogiorno. Uno della Lombardia che decide cosa deve succedere nel mezzogiorno, e poi che mi va a dire che finiscono il ponte sullo Stretto, che a dicembre gli arriva un progetto sul ponte dello Stretto. Allora dovete sapere che c'è già una moratoria messa in atto dalla Comunità Europea, perché il progetto doveva essere definito, cioè l'ultima proprio volta che gli potevano dare un progetto prima che gli chiedessero i soldi indietro era giù 2010. E quindi, insomma, diciamo che se anche solo tirassero fuori il progetto del ponte più lungo del mondo in settembre, ottobre, novembre, dicembre, 4 mesi, 3 mesi e 10 giorni, diciamo che bisognerebbe davvero parlare con questo architetto. In ogni caso, ci arriva, insomma, naturalmente il 2 ottobre ci sarà la manifestazione nazionale, appunto, il corteo no ponte alle ore 16 a Piazza Cairoli a Messina. Chiamato in difesa dei beni comuni, chiaramente, come dire, è necessaria la partecipazione di tutte e di tutte. In ogni caso, questo è il comunicato, ve lo leggo velocemente, però insomma, sostanziale davvero. I soldi del ponte per la messa in sicurezza dei territori. Ad un anno di distanza dall'alluvione che ha colpito la zona sud di Messina, lasciando sul terreno 37 morti, e a parecchi mesi dalle frane che hanno interessato i paesi dei Nebrodi, le aspettative di messa in sicurezza e d'aiuto provenienti da quei territori sono largamente disattese. Le prime piogge autunnali, inoltre, hanno gettato nella paura i paesi già colpiti e messo in ginocchio Reggio Calabria. Al contrario, il progetto di costruzione del ponte sullo Stretto ha proseguito il suo iter, un iter stanco, confuso e contraddittorio, che però si propone all'intero territorio meridionale come un'ipoteca gravida di devastazioni e sprechi. D'altronde le trivelle che, come funghi, spuntano un po' dappertutto, lo stanno a dimostrare. Ciò che viene prospettato agli abitanti di Messina per il futuro è, insomma, una città sottomessa agli interessi di Impregilo e soci, ridotta a un colabrodo e con una viabilità impazzita, nella quale l'autorità sarà in buona misura in mano alla Stretto di Messina S.p.A., concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione, realizzazione e gestione del ponte. Ce fanno tutti tutto questo. Sullo Stretto Ponte e sullo Stretto di Messina. Lo dimostra la vicenda dei complessi residenziali di Via Circuito a Torre Faro, candidati ad ospitare le trivelli, posti sotto la minaccia dell'intervento delle forze dell'ordine. Dalla manifestazione nazionale svoltasi a Cannitello il 19 dicembre 2009 restano sempre attuali le principali priorità: messa in sicurezza del territorio, sicurezza d'altronde era stata la parola più usata in campagna elettorale dagli stessi componenti del governo, che hanno però ignorato gli allarmi lanciati dagli esperti e dagli abitanti. 2. Ammodernamento del sistema viario, potenziamento e ammodernamento della flotta marittima pubblica, rifacimento delle condotte dell'acqua e gestione pubblica come bene comune non alienabile, allestimento dei servizi essenziali fondamentali in ogni territorio, a partire da quelli sanitari. Il nostro non sarà un corteo di commemorazione, ma una giornata di lotta. Pretendiamo che i soldi destinati al ponte vengano immediatamente utilizzati per mettere in sicurezza sismica e idrogeologica i nostri territori, perché i tragici eventi che hanno colpito Giampilieri, Scaletta Zanclea e gli altri paesi della Riviera Ionica non possano più ripetersi. Sabato 2 ottobre, corteo no ponte, ore 16, piazza Cairoli a Messina, in difesa dei beni comuni. Voglio dire, e questi stanno facendo il ponte, cioè basta vedere quello che sta succedendo a Napoli con la storia delle discariche. Avevano detto che lì la discarica non si faceva, ma invece tocca farla, perché nessuno pensa che riciclare, avere una raccolta fare la raccolta differenziata sia un'idea intelligente, e soprattutto raccoglierla dalle strade, perché poi magari i cittadini e le cittadine la fanno la raccolta differenziata, ma poi l'agenzia municipale passa, la prende e la butta tutto quanto nello stesso posto, come spesso fanno. E altrettanto, come sta succedendo in questi giorni a Napoli, dove non mi ricordo bene come si chiama il paesino, appunto, le discariche vengono bloccate dai cittadini dei paesi limitrofi, che appunto fanno sì che la monnezza non venga sversata ulteriormente là dentro, così deve succedere il 2 ottobre a Messina. Con l'augurio appunto che tutti e tutte ci informiamo per partecipare a questo corteo nazionale. Ci sono, a quanto ho letto io un po' in giro, sia pullman da Palermo, dalla Sicilia in generale, che qualcuno dal centro-sud, dal sud più che dal centro-sud purtroppo. E invece è un appuntamento importante, anche perché insomma è anche un bel modo di dire vai a cagare a questo governo, che a quando il centro-sinistra aveva fatto una cosa buona stralciando il progetto, ha pensato bene di riprenderlo, perché era proprio una cosa intelligente. Vabbè, va, andiamo avanti sempre così, no? Insomma, non ci risparmiamo niente. E allora un buon ascolto a tutti e a tutte, anzi scusatemi, prima la canzone si chiamava Elio e le storie tese, là è il gruppo chiaramente, scusate, e il brano si chiamava Presidance, e adesso andiamo avanti con la programmazione di Salute e Felicità. Buon ascolto a tutti e a tutte. Faccio fatica a trattenere le battute pungenti che mi verrebbero. Yeah. Com'è? No. No, non è cazzo mio. Però, attenzione. Attenzione, ricordiamo. Ehi, non te ne puoi fuori per sempre. Senta mia, tu dico questa canzone. My brother. Where are you running for? A voglia mi fui, sia vita poi ti ricama, qualsiasi sia la destinazione lontana. A voglia mi fui, se che gente parra sai, tu che te vai, tu torna a re, tu che sto sai. A voglia mi ti ciangi, sta vita tu una cangi, se canto miri in un problema, rormo pure mangi. Non è solo per mia, che tanto campo quali, non è una mala che è una situazione mentale. Oggi non mi torni a re, tutti i tempi fui, visto tuo destino, se ti da fui. Tu rigo ca canzuna, la vita è una sola, rivigliati, prima o più tempo ti consuma. My brother, where are you running for? Oh, my brother, where are you running to? My brother, tell me where are you running for? Oh, my brother.

capa. Ma ti vuoi riprendere? Non ce la faccio, non posso. Non ce la faccio, non posso. Devi riprenderti. Dimostra che sei un vero uomo. Ti sfido al pugnometro. Loro fanno promesse che non vogliono mantenere, per saziare la loro fame e la loro brama di potere. Sono uomini piccoli piccoli, ma si credono giganti, megalomani ridicoli, a tratti anche inquietanti. Sono forti coi deboli, ma deboli coi forti, pronti a uccidere per calcolo se ne fottono dei morti. Sono al comando di mute e di mastini, che sciamano per le strade con istinto d'assassini. Sono iene rognose, affamate di carogne, pante cane appena uscite dalle fogne. Allora boom boom, la rabbia avvantaggia, te lo dico boom boom, e la fiamma sale. E ancora boom boom, la rabbia avvantaggia, lo ripeto boom boom, e il fuoco sale. Succhiano il sangue a chi lavora, fanno affari con chi rascano il fondo fino a quando ogni risorsa non è distrutta, danno la mancia a chi ubbidisce, bastonati a chi protesta, ordini precisi di spaccarti in due la testa. Sguazzano nell'oro accumulato con gli inganni, immuni ad ogni legge perché sono dei tiranni. Amici della mafia e della criminalità, sono la feccia dell'umanità. E allora boom boom, la rabbia vampa già, te lo dico boom boom, e la fiamma sale. E ancora boom, lo ripeto boom boom, e il fuoco sale. Nostra è la fatica, nostro anche il sudore, nostre l'ossa rotte, gli occhi rossi dal dolore. Nostri sono i morti caduti sul lavoro, a loro invece il lusso, i bei vestiti, il grano è loro. Del travaglio quotidiano, eppure se ne stanno sempre con le mani in mano. Allora boom boom, la rabbia vampa già, te lo dico boom boom, e la fiamma sale. E ancora boom boom, la rabbia vampa già, lo ripeto boom boom, e il fuoco sale. Quinto e ultimo argomento di questa seduta parlamentare, durante la quale vi ricordo, vi ho chiesto di mettere la fiducia. Mamma mia, guaio, 22:59 ce l'ho fatta, lo dico subito volando, così davvero sono assolutamente impeccabile anche questo mercoledì, me lo dico. 16 ottobre noi ci stiamo, sia ai diritti, no ai ricatti, il lavoro è un bene comune. E questo è lo slogan della manifestazione indetta dalla FIUM il 16 ottobre prossimo, a seguito della disdetta del contratto nazionale da parte di Federmeccanica, con la complicità dei soliti Kirin e Croc, Cinsley Will, e dopo le note vicende di Pomigliano e Melfi. Non è solamente contro queste vicende di un'arroganza volgare che il sindacato metalmeccanico chiede di scendere in piazza. L'appello e la proposta della FIUM è molto più ampia e le parole d'ordine semplici e chiare. Diritti, democrazia, legalità, lavoro, contratto. È un appello alla ricomposizione sociale e politica per contrastare gli effetti della crisi globale, effetti che non si limitano al campo economico, ma che diventano la motivazione forte per avviare controriforme sociali, come quella della scuola, tagli al welfare, privatizzazione di beni e servizi, svendita e devastazione di intere fette di territorio a favore di opere, grandi e piccole, utili solo a riempire le tasche delle lobbies energetiche e del cemento. Apprezziamo quindi la proposta lanciata dalla FIUM, certo difficile ma oggi necessaria, di costruire uno spazio comune in cui esperienze diverse possano confrontarsi e costruire un percorso che faccia del lavoro un bene comune, relazionandosi con le altre istanze sociali, dalla difesa della scuola alla ripubblicizzazione dell'acqua, per disegnare un altro modello di sviluppo. Questo è il terreno su cui vogliamo misurarci e per questo come CSOA Cartella, di Reggio Calabria, abbiamo deciso di aderire all'appello della FIUM e di partecipare alla manifestazione del 16 ottobre, programmando, insieme alla stessa FIUM Regina e al collettivo UniRC, una serie di iniziative affinché anche da Reggio Calabria ci sia una partecipazione significativa. Quinto e ultimo argomento, ore 23, davvero ineccepibile, ve lo ridico da me. Un altro appuntamento, quinto ma non ultimo, anche di questi punti sulla quale vi ho chiesto di mettere la fiducia per la nostra salute e la nostra felicità in questo paese. Perché come dicevano anche le radici nel cemento poco fa, nostri sono i morti sul lavoro, loro i ricchi e i soldi. E quindi insomma, ricordandovi, adesso vi lascerò un po' di musica e la prossima canzone è davvero significativa dello stress di questa puntata. Vi ricordo i 5 punti su cui dovete mettere la fiducia, mi raccomando: università, antifascismo, no Vaticano, no ponte e FIUM. Se facciamo queste 5 cose, riusciamo a chiudere questi 5 punti entro la fine del 2010, vi giuro, voglio che abbiamo davvero svoltato. Un paio stanno messi bene, un altro paio messi male, il Vaticano mi sa che non ce lo leviamo presto, però vabbè, speriamo bene e proviamo ad andare sempre avanti. Allora, insomma, ci ascoltiamo un altro po' di musica. Insomma, il prossimo brano, ve lo ripeto, è significativo. Siete all'ascolto di Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer che va in onda il mercoledì dalle 21 alle 23 su www.transizionedifase.org. Buon ascolto. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hemp weed, is used in the form of a cigarette. Fumare marijuana non ha explorabile impulso sessuale. Fumare marijuana non ha. Viva la marijuana! Sarebbe molto opportuno che finalmente si legalizzasse questa cazzo di marijuana. Io un cannone me lo merito, io un cannone me lo merito, io un cannone me lo merito e me lo fumo tutto subito. Io un cannone me lo merito, un cannone me lo merito e anche se non me lo merito, me lo fumo tutto subito. Io una bella piantagione sul balcone, ognuno la sua è la migliore soluzione. Quando ce l'ho accanto c'era un mucchio e canto, la mia chilata d'erba e me ne faccio un vanto. Se passa il resistente avrò la mia afghana, stronciate fine la mia nigeriana. Posso averla del Ketama, vergine dell'Amazzonia o anche originale delle grotte a Tora Bora. I semi sono buoni, di combinazione, i geni ok la prossima generazione. Crescere abbondante grassa sul balcone, l'ho messo a cielo aperto, c'è anche l'impollinazione. I balconi dei vicini avranno super limoncini, vedi quanti sono, mille buoni motivi. Il mondo così è più libero, io seguo volteggi crescendo il mio albero. Io un cannone me lo merito, io un cannone me lo merito, un cannone me lo merito e me lo fumo tutto subito. Io un cannone me lo merito, un cannone me lo merito e anche se non me lo merito me lo fumo tutto subito. E ora io sei generosa di cime, ha un sapore vero super sottile, in casa cresce bene l'erba, è raffinata come sabbia di Gerba. La stagione buona più buona è la terra, finirà che tiro su una serra. Sarò il mio solo spacciatore, non mi sfrutto, sarò il produttore, il contadino più fedele che attende le mele. Più fumi marijuana più viene l'appetito, è carburante un affare pulito. Esce dritta dritta dalla piantagione, quella sul balcone è la migliore soluzione. Io ho fatto la mia scelta, mi muovo la svelta, l'elicottero in cielo volteggia, mi cerca, ma guardi via dalla seminatura, non mi calpestate la mia nuova fioritura. Io un cannone me lo merito, io un cannone me lo merito, un cannone me lo merito e me lo fumo tutto subito. Io un cannone me lo merito, un cannone me lo merito e anche se non me lo merito me lo fumo tutto subito. Marijuana. fumo i miei grammi. C'è chi fa i veri danni con altri programmi. Ho quei bottiglioni come mula a schiera. Ho quei fini fini che affettano barba nera. Con quel brutto naso puntato, con quel naso infilato, con quel naso tra le chiappe di ogni botti morato, con quei nasi parassiti da rapina, nasi farciti a buona cocaina. Ancora lì a giudicare cosa si può fare. Non ero morale come sudore il maiale, ma sono solo oppio. Andata male, che non sconvolge neanche, ma che noia mortale. Queste mille sentinelle, chiuse in famiglie, false massacre come fantasmi di gogne. Sono brutti attori e brutti attrici, sono tutti peccatori e peccatrici. Ma lasciateci in libertà, questi stanno in paranoia, manco fossero in comunità. Medica, terapeutica, le antipasticche dell'industria farmaceutica. Chi ha bisogno di quelli per andare in giro dritti? Una stima più alta dei miei diritti. Siete debolucci e vi perdono, ma non mi stressate solo perché sono buono. Io un cannone me lo merito. Io un cannone me lo merito. Un cannone me lo merito. E me lo fumo tutto subito. Io un cannone me lo merito. Un cannone me lo merito. E anche se non me lo merito, me lo fumo tutto subito. Io un cannone me lo merito. Io un cannone me lo merito. Un cannone me lo merito. E me lo fumo tutto subito. Io un cannone me lo merito. Un cannone me lo merito. E anche se non me lo merito. Il brano si chiama Basta ed è chiaramente, chiaramente, chiaramente uno dei pezzi più belli degli Asadam Foundation. Diciamocelo chiaro e tondo, dopo una giornata così davvero, dopo una giornata in cui ancora una volta ci hanno ripropinato sto polpettone Berlusconi, mannaggia la miseria ladra, diciamocelo, basta, diamoci fiducia, pigliamo questi 5 punti e spacchiamo tutto. L'1 gennaio 2011, adesso controllo che giorno sarà, vediamo cosa capita. L'1 gennaio 2011, giustamente qua il calendario nel 2010 non va avanti, e non sono capace di usare un calendario in realtà. È sabato, quindi noi ci vediamo mercoledì 4 del 2000, mercoledì 4 appunto di gennaio 2011, e pensiamo agli altri 5 punti su cui darci fiducia e ci diamo tempo fino a giugno o dicembre, dipende dalle scadenze programmatiche. Basta con queste storie, basta. Siete stati collegati con Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer che va in onda tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 su www.transizionedifase.org. Stay tuned.